perché è asciutta. Un mega negozio di elettronica. Zitto Miaggia. Ho un bel negozio di elettronica, ma di baracchi? Tutto. Tipo Media World. No, non si può Media World. C'è la componente più piccola e la componente più grande. Ho capito come intendi. Quello che dietro il bancone c'è il piso. Quindi del cambio, vendita di televisione, vendita di baracchini, vendita di radio set, di radio amatoriale, vendita di tutto. E poi anche altra roba acustica, per gas, di tutto. Visione per tutta l'Italia. Siamo in rigoco perché sono un po' stanchino. Oggi proprio non mi sono riposato 5 minuti. Una cosa dopo l'altra ho fatto. Io ho lavorato tutto il giorno. Ho lavorato anche io. Diciamo, non lavoro, ma ho fatto un bel roba. E poi per incorniciare tutto quanto. C'è anche mia moglie così. Insomma, da dove tu vai, dai. Perché ho preso troppo, è così. Poi per l'ultima già, poi dopo se vedo che mi va tutto bene, come seconda cosa mi voglio aprire una sala di registrazione, certo, c'è audio luci e tutto, hai capito? Quella è una cosa che va, vedi? Quella è roba lì. Questo non va, anche il negozio di elettronica non va. Tutte queste cose qua. Anche serve audio luci, ma non così, no. Grande, roba potente. Basta. Speriamo che non siano solo sogni, che sia una realtà, che si possa trasformare in realtà, anzi io te lo auguro. No, ma io non parlo, io lo posso davvero, ma buonelle. E vabbè, fallo, anche tu stai dicendo di no. Fallo, tenta, ci se te la sento. Me la sento, un po'. Tu hai 50 anni, io ne ho 26. Se un giovane non porta avanti qualcosa, che cazzo ci sta a fare nella faccia della terra? Vabbè, ma cosa c'entra quello lì? Sta lavorando lo stesso, non è che non sta lavorando. Uno è 50, uno è parassita, vabbè, ma quando sta lavorando qualche cosa avanti la porta lo stesso, perché se mai mi serviamo me la vedi che me la venga. Gappa. E ma dico, avendo le possibilità tutte economiche, adesso se ne potresti pregare, perché dai, non è che, ma io sono ancora giovane, devo realizzare qualcosa, cioè, tu sei che grande età, cioè ti metti a posto, non te ne frega più nulla di nessuno, io devo realizzare qualcosa invece. Ma non credere che io le idee non ce le abbia, è che se trovi qualche cosa da fare non la faccio, anche perché 50 anni non sono un'età così come la vedi tu. 50 anni uno se è giovane dentro e ha idee cose da portare avanti, lo fa lo stesso, forse è meglio di un giovane, perché anche l'esperienza è sulle spalle. Ma comunque, in ogni caso, io ti auguro di mettere in atto queste cose che tu hai in testa, perché per fare queste cose ci vogliono meno soldi, non è che le fai così. Devi prendere prestiti, riso, il tasso, è come un bel gabbo. Ma se ce li hai, se tu vai a vedere, non hai bisogno di prestito, è già un prestito, altro che prestito, è più di un prestito. Se c'è i soldi no, c'è i soldi no. Ma è l'idea però per aprire un negozio così come dici tu, cosa ci vuole di soldi? Non so se mi spiego. Sai che diventi un tramigliardario, cazzo, 25 milioni di euro. 2 milioni, cioè 1 milione di euro, 2 milioni di euro investi così, però ci cambi lo stesso. 2 milioni di euro, se ti basta, Cosa c'è? Poi alla fin fine, alla fin tranquillo, già fatto. Alla fin fine, quando comincia a prendere, le recuperi, cioè recuperi, almeno una metà dei soldi le recuperi per forza. Che se hai testa, che riesci a giostrarti bene, e vuoi, ci vuoi la testa, guarda, non c'è nulla da fare, bisogna stare molto attenti, cosa cazzo ci prende, e via, e ci vogliono fare, per fare cose del genere. Paga, paga, e ci vuole anche un po' di maestria in certe cose. Ordinare da ditte magari che sia una roba di meno, eccetera, eccetera. Quello senz'altro. Scappa, se mi dica, hanno fatto tutti, ma cosa, magari una ditta, che anche magari sarà una ditta diversa dall'altra, magari con lo stesso prodotto, magari più pulito di differenza. Se ne prendi tanto vuol dire che quei pezzi lì, per dire, cioè sono pezzi di là, devi stare attento a tutti i cose. Un attimino. Scappa. Anche in un'attività privata, prendiamo in certe attività, per esempio in un'officina, in un qualsiasi cosa. Io sarò attento a fine giornata, adesso ci rimetti. Beh. A chi deve, chi c'è una roulette russa, chi se deve stare sempre il telefono a ghito, dentro l'officina, telefono a quello, alla fine, chi se ti fa tutti i signori in manco che svegliare ghito. Perché se cominci, cioè stare tutto il giorno, io non vedevo che io me la continuità e cose. Perché molte volte deve ragionarla anche così. Se tu hai avuto di dissenso, a te te lo faccio pagare, il gioco, l'ombese te lo faccio pagare non 50 come l'altro, ma te lo faccio pagare 60, tu ci stai perdendo. E se tu non stai attento, uia, ti faccio di viramera. Paga quanto? Io devo chiudere perché mia moglie non sta bene, vuole dormire. Ci sentiamo, buonanotte a tu. Buonanotte. Scusami, ma forse è casa maggiore. Ciao, ciao. A domani. Ciao, dai, buonanotte. Ehi, già sto al computer, mi guardo un po' di cose. Ciao.